il coordinamento Lesbiche Romane presenta È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera, buonasera a tutte, benvenute alla 187esima trasmissione di Una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane. Oggi è 11 luglio, siamo in diretta. Aspetta che non ti si sente, vedi un po'? No, forse è quello il microfono. Prova un po'. Ci siamo? Sì. Qua, buonasera, come al solito ci siamo fatti riconoscere, sì. Ma del resto è il caldo dell'estate. È il caldo dell'estate. Pensavate che eravamo andati in ferie, invece io e Rosina siamo sempre qui imperterrite in radio. In radio insieme a voi. E quindi dicevamo, siamo arrivati alla 187esima trasmissione. Questa trasmissione, come sapete, va in onda tutti i martedì dalle 21 alle ore 22 e potete chiamarci qui in radio allo 06 49 17 50, oppure potete scriverci un'email, quindi approfitto, vi ridico il nostro indirizzo, che è contatti@clrbp.it. Oppure, come dovreste già sapere, il nostro telefonino a cui potete inviare gli sms stasera è il 338-4146-682. E questa sera? Questa sera? No, eccole. Brave, ci fanno sentire I subito trillini, dove ci sono. Che carini, brave. grazie di essere qui con noi. No, qualcuno che ci cerca. Telefono. Allora adesso risponderemo al telefono. Facciamo così, mandiamo subito un po' di musica, sì. E così loro si rilassano. Parleremo dell'estate, quindi diteci dove andrete quest'estate. Giorno sai, ai barabamba, va, ya ha. Eccoci qua di nuovo in diretta. Dunque, stiamo mandando un CD che ci è stato gentilmente offerto da Giulia, che salutiamo, e che ci ha detto: guarda, secondo me voi del CLR dovete un po' svecchiare la musica. Esatto. Ci ha detto che siamo delle sonore babbione. Ecco, no? Però ci ha fatto questo CD la che babbionaggine ci piace, però. E quindi grazie a Giulia, questo era un pezzo di Amalie Gray. Amalie Gray. Capito? Hai capito? Lo sapevi tu? No, non sapevo io, però andrò immediatamente a comprare il CD prima che si esaurisca. Esatto. Come diceva una famosa battuta di un famosissimo, nonché vecchissimo film, Cuori nel deserto, tanto per rimanere in argomento. Dunque, Annalisa, tu dove andrai quest'estate? Ancora non ho deciso, perché la mia dolce... Metà? Esatto, cioè ancora non ha capito che ferie ha, per cui a me mi ha fatto prendere un periodo e lei se ne è preso un altro. Ma dai. Vorrà dire qualcosa. Vorrà dire che io andrò in vacanza con lei e tu rimarrai qua da sola. Era il mio sospetto, infatti. Bene, e tu invece? Bene. Io rimarrò comunque qui. Mare, io mare sicuro. Mare? Sì, mare, sì. Mare, mare. Maiette. Mi sembra di affogare. No, io rimarrò qui a Roma per la gioia delle mie molteplici ammiratrici, quindi vedi. Sarò disponibile sulla piazza per tutto il periodo. Vedi, per scorrazzarle. Per scorrazzarle in giro per Roma, quindi se volete prenotarvi potete farlo al 340. Benissimo. Allora, ci sono molte iniziative quest'estate per sole donne, sì, o donne sole, in maniera tale che insomma, le donne sole possano andare e trovare una compagna, un amante. Perché mi guardi così? No, per dire. Perché sono sulla piazza, quindi mi devo trovare. Sei appetibile. Ma insomma, direi proprio di no. Direi proprio di no, sono nell'anno sabbatico, nel lustro sabbatico forse sarebbe meglio dire. Allora, che cosa vogliamo dire? Vogliamo subito cominciare con una, non è proprio una vacanza, però una iniziativa carina. Molto. Qui a Roma domani sera, no, dopo domani sera. Giovedì 13. Alla Casa Internazionale delle Donne, facciamo sì, un po' di pubblicità a casa nostra in sostanza. Sì. E si tratta di una cena in giardino, la cena delle tarantolate, chiedo scusa, e con un concerto di emozioni con Assurd. E si tratterà appunto di un concerto di Taranta, uh-huh. Ci sono di quattro sole donne, di sole donne, femminile. Un gruppo femminile composto da Cristina Vetrone che canta, suona l'organetto, la tammorra e il tammurello, Enza Prestia voce, tammorra, tammurello e chitarra, Lorella Monti che suonerà anche le nacchere, sempre la tammorra, tammurello, danzerà Enza Pagliata che è una cantante, attrice e una percussionista. E si tratta di una iniziativa per rivivere le tradizioni del canto, della musica e delle danze dell'Italia del Sud. E il sito internet di questo gruppo, che si chiama appunto, ricordiamo, Assurd, è www.assurd.com, e quindi se volete potete andare a prendere delle informazioni direttamente sul sito. Sì. E lo ripetiamo, giovedì 13 alle 20 nel giardino della Casa Internazionale delle Donne a Roma, in via San Francesco di Sales 1A. Ci saremo anche noi. Ci sarà anche una piccola ma bella rappresentanza del CLR. Sì. Anch'io mi porto il mio tamburello, brava. Quello che ci gioco al mare, sai, quello fai le palline. Chi volesse può prenotarsi, anzi è consigliata la prenotazione, e per farlo può telefonare allo 06 6840 1727. È da un po' di anni che per fortuna sta rinascendo queste antiche danze popolari del sud, da Napoli a Lecce, appunto le tarantole, e famosi sono i pezzi pure di Eugenio Bennato, che certo, noi sistematicamente mettiamo alle nostre feste. Se vi va di ballare all'aperto, venite numerose. O andate, venite, perché venite. Ci siamo pure noi. Copiosi e copione. Esatto. Ci siamo anche noi. Ci potrete vedere scatenarci nelle danze, sì, del sud. Sì, noi sì, noi che sì, veniamo da quella terra sappiamo. Sì. Approfitto pure per buttare giù qualche chilo. Adesso con l'estate, sai quanti chili. C'è la prova costume. Fai la prova costume, è una tragedia. Ho dovuto comprare 6 chilometri di randa da vela. Quest'anno sì. Basta, Rosina. Insomma, basta così. È l'amore. È l'amore che ti fa così? Sì. Boh. Senti, invece poi, sempre andando sul sud, rimaniamo proprio sulle iniziative del sud, che è la cosa più bella, no? Sarà contenta la moglie di Calderoli. La moglie di Calderoli stesso sarà felicissima. Ma Calderoli non voglio manco considerare perché è solo donna, quindi. Madonna, ma tu sei anche, oltre ad essere comunista, sei pure islamica, niente. No, sono negra. Sei pure negra? Allora sei messa proprio bene, stai messa. Allora, vi volevo informare che c'è questa, alla Masseria Sant'Anna, sapete che c'è questa struttura meravigliosa che è stata presa da alcune delle componenti dei desiderandi fanno delle iniziative molto carine. Sempre ci sarà proprio un corso di percussioni e danze popolari dal 18 al 23 luglio con tre donne che tengono questi corsi, che sono Barbara Musi, Stefania Perrone e Concoba. Per chi non lo sapesse, la Masseria Sant'Anna è una struttura bellissima che si trova tra Alberobello e Monopoli, molto vicino a Ostuni, ed è veramente molto bella, carina, tenuta da nonne, non perché sono nostre amiche, ma veramente molto simpatiche, bravissime, molto brave. E oltre a fare questo corso, naturalmente alloggiare, nel tempo libero si potrà passare la giornata al mare, visitare i luoghi affascinanti che la Puglia offre in questa regione. E questo stage è aperto ovviamente anche ai principianti, quindi è un corso appunto di danza africana, danze popolari e percussioni con queste tre donne, l'abbiamo detto. Per informazioni basta andare sul loro sito, sul sito della masseria, che è www.masseriasant'anna.it, e lì potete anche prenotare invece dei weekend più tranquilli senza danza in qualunque altro periodo dell'anno, meno faticosi. Questa l'abbiamo detta. A questo punto, parlando della Masseria Sant'Anna e di parte delle desiderande, direttamente andiamo alla bellissima vacanza invece. Ma insomma, io quasi quasi le lascerei un po' sul filo e manderei un po' di musica, così, che dici? Dai. C'hai qualche pezzo carino magari? Ma... so, Farawalla, ce l'hai, no? No. Vabbè, si vede che siamo proprio in periodo estivo, siamo un po' sbracati. Però sono andata verso Capoverde. Va benissimo, vai con l'Evora, vai. Deixa morrer da sonhar na sombra de bondinho de uma pequena gente, de um mês perfumado. Deixa morrer pra sonhar na sombra de bondinho de uma pequena gente, de um mês perfumado. Assim deixa morrer o flor na sombra de bondinho, deixa morrer pra sonhar. É assim que uma pomba nasce ninho, assim deixa morrer o flor na sombra de bondinho, deixa morrer pra sonhar. É assim que uma pomba nasce ninho, se pomba é feliz nasce ninho, a mim também me é feliz na sombra boldinho, macarinho, de um mês perfumado. Se for bem feliz na ceninho, a mim também me é feliz na sombra boldinha, carinho, de um mês perfumado. Assim deixa morrer o flor na sombra di Boutinho. Deixa morrer, tá sonhando. É assim que uma pomba nasce ninho. Assim deixa morrer, oh flor. Na sombra de bondinho. Deixa morrer, tá sonhando. É assim que uma pomba nasce ninho. Brava. Io là vorrei andare a Capo Verde. Vero? Per sole donne a Capo Verde. Mm. Bisognerebbe trovare il modo di andare senza spendere troppo. E si sa che le lesbiche non sono tanto ricche. Lo so. Mm. Vabbè, vogliamo ridirlo comunque. Ma sì, certo. Stiamo parlando di estate, di mare. Volevamo sapere se sapete di vacanze per sole donne o se ci volete dire dove andate quest'anno. Vi rinnoviamo l'invito a mandarci un sms, più che altro per farci capire che non siamo solo io e Rosina stasera. Il numero è 338-4146. Sole disperate. 338-4146-682. Oppure addirittura in trasmissione allo 06-4917-50. Io comunque ti posso dire dove andrò, non in vacanza, ma dove andrò a settembre. Per lavoro. Sì. Però, insomma, andrò a fare la pesca dei gamberetti in Norvegia. Ti piace? Molto. Starò fuori 3 mesi. Io l'ho conosciuta una norvegese. Una norvegese che pescava a i gamberetti? Lesbo. Una lesbo norvegese che pescava i lesbo, sì, gamberetti. No. I bat gamberetti. Mi ha fatto fare una nuotata di... Una nuotata fra i gamberetti. Assurda, dice, sei stanca? No, continuiamo. Mi ha fatto andare all'isolotto di fronte per poi... Perché le norvegesi sono molto lunghe, quindi hanno poca difficoltà. Hanno una falcata nuotatoria, esatto, molto molto ampia. Arrivati sull'isolotto mi ha detto, torniamo? Torniamo. E tu hai detto, sì, ma vai tu e prendi una barchetta, torna indietro e riprendimi. Madonna. Insomma, chi volesse venire a fare la pesca dei gamberetti, sì, con me in può Norvegia, scrivere a Rosina. Può scrivere al mio indirizzo privato. Sì. E ve lo darò in separata sede. Mm. Dunque, allora abbiamo detto la masseria. La masseria, come tutti gli anni, farà una vacanza appunto in masseria ad agosto. Bellissima. Questa veramente... Levando lo scherzo, come levando si dice lo a scherzo, Napoli. Come si dice a Napoli. È bella, veramente. La vacanza in masseria vale veramente la pena di... Viverla. Di viverla, sì. E vuoi parlare un po' tu della vacanza in masseria, visto che ci sei stata, insomma, sei stata una fruitrice? Sì, a parte la struttura che è incantevole, e loro appunto sono circa 20 donne, poi forse pure qualcosa in più, che preparano la colazione, il pranzo, la cena, quindi venite coccolate, organizzano giochi, si conoscono un sacco balli, di donne, canti, feste. Ogni sera si balla fino all'alba, si beve molto, scordatevi di riposarvi perché è una vacanza proprio di divertimento e si fanno pure bellissimi incontri. Si va da sole in di genere. Tipo plastico, esatto, si va da sole e si non si torna quasi mai da sole. Si va da sole e non si torna più. Si va in coppia e al 90% dei casi si torna ancora in coppia, ma non è detto, però è veramente bellissima. Quindi andateci da sole e non andateci in coppia, questo è il messaggio. No, però insomma se volete giocare con la vostra fidanzata, sì, però se volete conoscere, se volete giocare da sole, donne, esatto. Allora, per prenotazioni alla masseria potete scrivere o a noi di contatti @CLRBP e inoltriamo le nostre carissime amiche desiderande di Bari che salutiamo, oppure potete direttamente scrivere a loro, vi do l'indirizzo che è info@desiderandae con la AE finale appunto, .it, oppure potete telefonare tutti i giorni, potete farlo dalle 19 alle 22 al 333-7155-187. Ci sono varie camere da 6-8 posti letto in masseria, oppure soluzioni diverse per chi appunto in coppia vuole stare nei vicini agriturismi. Ve ne innamorerete, credetemi, e la struttura, vi ripeto, è vicino Ostuni, Albero Bello, Martina Franca, Locorotondo. Ma alla fine uno manco va a visitare intorno perché è troppo bello stare là insieme a loro. Ci hanno troppo da fare in questa masseria. A parte che c'è la nostra Tagnuccia. È vero, la nostra Tagnuccia che salutiamo con molto affetto e la abbracciamo a quest'anno distanza. Quest'anno sta lì e organizzerà anche lei i giochi, quindi se c'è lei nell'animazione... Vi divertirete da morire. Da morire, attenzione. Da morire, sì sì. da morire. L'anno scorso è stata veramente molto molto interessante, sì, la vacanza in masseria. E Lucilla, la compagna di Lucilla, Angela, ci ha mandato pure un articolo che avevamo letto proprio sulle serate, su quello che organizzavo, perché poi c'è una cuoca bravissima che prepara dei piatti stupendi, a parte le orecchiette tipiche con le cime di rapa. Con le cime di rapa oppure con i broccoli. Sì, no. Come cioè, sono le orecchiette pugliesi? Io non lo so. Con le cime di rapa. Con le cime di rapa. No, loro non usano broccoli. E poi ci sono pure, che ne so, quel, oh, non mi ricordo mai, quel formaggio tipico. Avete fatto il gioco? Il formaggio tipico? Mi verrà in mente a fine serata. Okay, vi dobbiamo confessare la nostra ignoranza casearia. Cioè, la burrata è un'altra. Ah, la stracciatella, ecco. La stracciatella. Ma cos'è, una trasmissione gastronomica? Con mozzarella filante con della panna buonissima. Ingrassate 3-4 kg, però ve le vado una soddisfazione. No, no, ma poi i chili li perdete facendo sì, molto movimento, nuotando, facendo lunghe passeggiate, insomma, avendo situazioni di tipo plastico come sopra. Per cui, sì, per cui andate in masseria, andate, prenotate. Abbiamo detto il periodo? Ah no, forse no, dal 20 al 27 agosto quest'anno, dopo Ferragosto, quindi è proprio il periodo ideale. Quindi avete tempo di andare in vacanza prima da un'altra parte? Esatto. Ad esempio? Vi riposate prima, praticamente, poi partite. Potreste andare ad esempio a Terra di Lei prima? Ecco, brava, eh? Così introduciamo pure il prossimo posto di Sole Donne. Terra di Lei, che è appunto un luogo, diciamo, della politica delle donne, ma in forma di vacanza. Sì. Vacanza anche studio, insomma, un... lì si gioca, si medita, si fanno i bagnetti nella piscina. Bello, sì. E Terra di Lei è appunto il frutto della ricerca di molte donne che hanno messo al centro della propria vita l'amore per la libertà femminile. Noi ci siamo state insieme a Terra di Lei, ti ricordi? Sì. Molti, la laurea di Tania, molti anni fa, mo ci vuole, molti anni fa. Il tempo passa, sì, vassene, sì, vassene, noi non ce ne avvediamo. E, le proprietarie sono sempre le stesse, però, sempre le stesse da anni, cioè Silvana e non mi ricordo come si chiama lei, Federica forse, che sono simpatici e preparano tutti i piatti vegetariani. È il posto per me, è appunto un posto per l'incontro di varie generazioni, sì, perché potete trovare donne diciamo di una certa età, come le giovanissime, come me e te, donne, le babbione, anche le giovani. E dove si trova Terra di Lei? Allora, Terra di Lei, aspetta perché io non me lo ricordo si mai. Si va la strada verso Orte, si esce a Fabbro, credo, no? A Fabbro si esce, sì, sì. Si esce a Fabbro, sta su una collina vicino ad Orvieto, mm-hmm, una collina di 12 ettari, pensa un po'. Ed è appunto un'oasi naturale con boschi di querce, mm-hmm, terrazze di olivi coltivati rigorosamente biologicamente insieme a piccoli frutti, verdure, erbe officinali, è una specie di grande convento, c'è molta fauna, uh-huh. E poi lì vicino insomma ci sono molti, molti paesi, città medievali, c'è Orvieto, Perugia, Assisi, Todi, Gubbio, città, sì, della Pieve, sì, via dicendo. Si può visitare, mm? Sì. Potete andare al lago, a Bolsena, al lago Trasimeno. Poi ci sono anche i bagni termali, quasi quasi ci ritorno, prima vado là, bello, prima vado a Terra di Lei, sì, e poi posso andare alla masseria. Allora, e vogliamo dare... L'indirizzo email c'è? L'indirizzo mail, eccolo qua. Oppure il sito. Ah sì, diamo il sito, vai, www.terradilei.it. E così potete vedere pure le camere come sono fatte. Potete vedere tutto, ci sono una specie di piccoli, come si chiamano, bungalow. Sì, sono delle stanze sia bungalow. Oppure potete anche portarvi la tenda, sì. La tenda, molto bello, se vi piacciono le formiche. Di fare il barbecue. Certo. Sì, sì. Però insomma Silvana non è tanto contenta se fate il barbecue. Dipende da quello che cucinate. Potete fare le melanzane. Anzi, come si dice a Napoli? Le melenzane. Le molegnane. Le molegnane, ecco. Potete fare... Cioè, non vi portate il capretto, non glielo sgossate, ecco, davanti. Esatto. Cioè, questa è la novità. Va bene, abbiamo detto di Terra di Lei, abbiamo detto della masseria. Ne diciamo punto un'altra. Subito, che subito. No. Ma no, mandiamo un po' di musica, che allora, così ci organizziamo. Visto che parliamo tanto di masseria e di Puglia, che io adoro... dove stanno nascendo un sacco di strutture tenute da sole donne, quindi vanno sostenute secondo noi, io manderei un brano vecchissimo di Mariella Nava, tu magari mi farai una faccia un po' così. Mariella Nava? Il seme e il nodo? No, non è quello, e parla proprio della bellissima terra della pugliese, Puglia, si chiama proprio Terra Mia, che non ha niente a che vedere con Terra Mia. Amare è bella, no, Terra Mia, quella là, quella dei Mudugni, no, chi la canta? No, vabbè, sentiamola, sentiamo. Thank you. che dicono no, no, no, no. Bella canzone. Eri giovane quando la portò a Sanremo, non ti puoi ricordare? Era una creatura. Era una creatura, io me la ricordo. Sì. Metteva pure a piangere. Tu, ma tu ti commuovi sempre? Madonna, non si sa perché. Sei una donna sensibile, stranamente. Allora, oltre a questi posti che abbiamo detto bellissimi, tra cui appunto abbiamo parlato ampiamente della Puglia, la masseria, vi volevamo segnalare anche un altro posto che è molto carino, che è sempre solo donne, in Alta Umbria, e si chiama Poggiolo dei Pini. Anche lì, se andate sul loro sito, vedete che bellezza di posto che è. Molte donne che ci sono state mi hanno detto che è veramente molto carino loro e molto bello il posto. Io vi do l'indirizzo email, che è www.poggiolodepini.it, e oppure potete anche telefonare per vedere come arrivare sul posto, potete fare questo numero che è 0763 838488. Benissimo, stiamo salendo piano piano. Adesso andiamo ancora un pochino più su, perché non ci si dica che noi siamo meridionalisti, eccetera, capito, eccetera, e andiamo, ci spostiamo, guarda un po', a Torre del Lago, in provincia di Lucca, dove dal 20 al 23 luglio ci sarà Les Week, che è il primo lungo weekend dedicato alle donne, che appunto si tratta di una settimana esclusiva pensata solo per le donne, e nasce proprio quest'anno al Friendly Versilia. E ci saranno spazi culturali, la spiaggia, il mare, gli sport, gli incontri, le feste, tutto quanto dedicato al mondo delle donne lesbiche. E si inizierà appunto giovedì 20 luglio eleggendo... Io però mi dissocierei da questa pratica, e leggendo appunto Miss Gaia, che sarà la reginetta lesbo italiana, e in questa sarà una serata presentata dalle Spaventa Passere. Chi ci conosce, insomma, chi è venuto all'iniziativa del Buon Pastore, sa che le Spaventa Passere sono state ospiti da noi due volte. Il 21 luglio ci sarà una serata di discoteca con Valli e Stefi DJ, e insomma ci sono molti, molti appuntamenti. Sto ripensando proprio alle Spaventa Passere, che ci ha colpito nei loro pezzi teatrali, poco usavano, no? La parola lesbica. Poco usavano la parola lesbica, adesso fanno... Miss Gaia, infatti. non è mica Miss Lesba, è giustamente Miss Gaia. E quindi allora, che cosa ci sarà in questa settimana dedicata alle donne, questa settimana di divertimento. Ci saranno appunto molte cose, l'elezione abbiamo detto di Miss Gaia, ci sarà un torneo di calcetto, varie grigliate, ci sarà anche incontri culturali, ci sarà presente Francesca Polo, presidenta dell'Arci Lesbica, e ci sarà appunto, abbiamo detto, il torneo di calcetto. Delia Vaccarello, andiamo un po' così a braccio, Delia Vaccarello presenterà L'amore secondo noi e Principesse Azzurre crescono, questo il 22 luglio alle 18, sì. Insomma, ci saranno molte cose, ci sarà le proiezioni di film, ci sarà incontri di vario tipo, insomma sarà una settimana molto, molto piena. Sì. E poi c'è il mare lì vicino. C'è il mare, naturalmente, quindi si potrà nuotare. Chi nuota? Io non nuoto, come voi sapete, mi lavo a secco perché sono allergica all'acqua. E quindi per informazioni potete contattare il sito www.friendlyversilia.it/leswick. E se volete invece telefonare potete chiamare il numero 393-03-33999. Questo per quanto riguarda la Versilia. Che cos'altro abbiamo da dire? Poi per chi ancora non ha deciso cosa fare e vuole avere dei consigli, vi volevamo segnalare una cosa che credo sia molto interessante, che mancava, che è nato un nuovo sito, una nuova agenzia di viaggi che è rivolta solo alle donne. Questa mancava. Che bello. Che bello. Quindi se non avete idea di dove andare potete, cioè, ci hanno scritto proprio queste due donne, una è Paola e l'altra è... non mi ricordo, mi ricordo solo Paola. Un nome singolare. Sì, forse Grazia. E che hanno scritto, che hanno appunto creato questa associazione, questa agenzia di viaggi che si chiama Out Woman, e loro dicono appunto che è stata concepita un'estate fa quando le vacanze ormai si avvicinavano e noi, come molte altre donne, eravamo nella più completa disorganizzazione. Avevamo una sola certezza: da donne che amano le donne volevamo strutture completamente dedicate o gay friendly, oppure con un'apertura mentale tale da rendere i nostri soggiorni piacevoli e liberi da qualsiasi condizionamento. Chi è che non vuole? Speriamo che l'aria condizionata ci sia. Esatto. La sorpresa è arrivata nel constatare che non esisteva un sito femminile che rispondesse alle nostre esigenze. Insomma, nulla di veramente dedicato e con possibilità di scelta ampia. Ed ecco allora che a un anno di distanza nasce appunto questo sito, Out Woman, che è un team completamente dedicato all'universo femminile gay. Gay, vabbè. Scappata, che ama viaggiare godendo pienamente della propria indipendenza economica e culturale. Out Woman nasce come la sorellina di Out Travel, qualcuno forse già la conosce, che è un sito, questa volta è gay e lesbico, che oggi è il principale protagonista italiano nell'offerta turistica gay. Allora, oltre però a Gran Canaria, Sitges, Lesbos, Versilia, appunto di cui vi ha parlato Rosina, mi ha colpito una vacanza che secondo me è bellissima per chi c'ha i soldi, per chi c'ha la possibilità di prendere le ferie in quel periodo. Sappiamo che siamo tutte fuori, Annalisa ce la consiglia, ma siamo tutte fuori. Sì, praticamente ho trovato questa qui, queste crociere resorts per sole donne. E cliccando vedrete che appunto compare questa scritta: benvenuta nel nuovo mondo delle vacanze per sole donne, esperienze uniche e indimenticabili dedicate alle donne lesbiche di tutto il mondo, dove ti senti libera ogni minuto della giornata. Intere navi da crociera e resorts in esclusiva solo per donne. E quello che mi ha colpito è che durante ogni evento star celebri della fama internazionale, quali, sentite qua, Whoopi Goldberg, Katie Lang, Indigo Girls, Melissa Etheridge, Martina Navratilova, non sono io che sto dando dei colpi, ma è Rosina che si è soscia, saranno con te. Pensate, Martina Navratilova, voi andate in crociera e vi ritrovate Martina Navratilova, e chi si riposa che più? Che si esercita a giocare a pallottoli contro la vostra cabina della crociera. Scende a rete verso di voi. Scusa Martina, vuoi giocare più tardi? Uè, Martina. E parteciperanno alla tua vacanza come parte integrante del gruppo. Tenetevi forte perché queste sono 7 notti, partenze ci sono da gennaio 2007, dovete partire però dalla Florida, quindi prima vi dovete preparare. Dovete andare pagare, in Florida, pagare il viaggio. Esatto, però poi dopo invece vi accompagnano e il prezzo mi sembra che sia sui 1.400 euro. Vabbè, perché, neanche molto, in fin dei conti. Dormi accanto a Martina, Goldberg. Però insomma, io accanto a Martina ci dormirei, detta fra di noi. Poi... Perché Whoopi no? Beh, Whoopi non mi piace più di tanto, ma Martina insomma... Katie Lang no? No, Kitty Lang non mi piace, tra l'altro era la ex della Navratilova, quindi sai, le cose usate non vanno mica bene. Per chi volesse, poi domenica, appunto Paola mi scriveva che ci saranno presenti, e qui lo dobbiamo dire. Ma certo. Domenica saranno presenti a... al Gay Village. A me non mi veniva. Beh, l'ho detto io, dai, su. L'hai detto tu. Al Gay Village a Roma, per dare proprio informazioni per chi è indeciso e per chi vuole conoscere questo nuovo, questa nuova agenzia di viaggi. Io vi do il sito che è www.autowoman.it. E quindi, niente, vi invito... Stavo cercando l'altro nome, no, solo Paola. Vabbè. Solo Paola, niente, grazie, è andata, grazie andata via. Grazie Paola. Dunque, a questo punto io, qui nel caldo di questo studio sì. asfissiante, direi sì. che possiamo mandare un po' di musica io, per tenerle sì. un po' allegre, sì. gli abbiamo dato un sacco di informazioni, quindi le devono decantare in qualche modo, e quindi ci rivediamo, ci risentiamo dopo il pezzo. Sì. Stiamo sempre ascoltando il CD di Giulia. Questa era Steel Guarding Space di Anja Garbarek. Che bella pronuncia. Ma dove li trova sti brani, Giulia? Insomma, ma lei è una, è vero? Sì, sì, è una che fa molta ricerca, molta sperimentazione. Dunque, sembra che siamo sole, vogliamo ridare l'indirizzo? Ridiamo l'indirizzo, ridiamo. Ragazzi, il telefono. Care, allora, noi siamo qui in radio in diretta, lo diciamo. Sì, sì, siamo Rosina, in diretta, rigorosamente. Rigorosamente, quindi se volete pochi minuti ancora, altri 10. 06491750 per chi vuole farci un trillino, per farci capire che almeno ci ascolta. Chi vuole scriverci, vi do il nostro indirizzo email, che è contatti@clrbp.it, oppure se preferite un SMS abbiamo qui il telefonino. Eccole, grazie, ci siete. Bravi, no, allora ci solo siete. Io e Rosina la vedo già tutti i giorni, è bella assai, però è vero, grazie. La verità, sì, la verità, eh? Chi non diviglia non capisce l'affare che non fa. Non fa, è vero, sono come la figlia della sola Camilla, tutti me vanno, nessuno me se pilla. Allora, 338 comunque 4146 682, io lascerei di sottofondo questo bellissimo CD. Ma certo. E darei altre due vacanze. Sì. Prima di leggere, che vai a aprire che sta arrivando un ospite, secondo me. Allora, un'altra struttura che è molto bella, mi hanno detto, e sta è ormai da 2-3 anni che è nata, un luogo di incontro per donne immerso nel verde, si chiama Porta, La Porta. È sull'Appennino Tosco-Emiliano, in cui si svolgono seminari, feste, iniziative per promuovere l'arte, il benessere, la cultura lesbica e femminista. Offrono ospitalità, bed and breakfast, anche lì c'è uno spazio per tende, e tra l'altro fanno riflessologia plantare, festa del solstizio, gemmo musicale, qigong, passeggiate nei boschi e molto altro. C'era arrivata anche una, credo, iniziativa che facevano a breve, altrimenti io vi do direttamente il loro indirizzo, ed è www.women, scritto proprio women plurality woman, quindi lo saprete scrivere, .it/laporta, oppure potete telefonare, il telefono è 328 2635 855. Io vi invito a visitare questo loro sito, altrimenti se non avete capito qualche indirizzo stasera potete scriverci, vi rimandiamo tutto il pacchetto di proposte. Di proposte, il pacchetto turistico. L'ultimo che mi aveva detto Lucilla, non ti dimenticare di dirlo, che sono troppo carine, è un altro posto sempre in Puglia, pensate, questa volta ci spostiamo verso Lecce, che è una città fantastica, e loro si chiamano le Charadamar. Il nome è una garanzia. Il nome sì. Ma per capire come si scriveva, con Lucilla che mi... Ecco, no, un bacio in diretta. Dell'ospite. Stasera è proprio una trasmissione frutti. Sì, sì, molto così. E per vedere questo posto incantevole potete andare sul sito, che è www.leccebedandbreakfast.com. Charadamar, @msn.com è il loro indirizzo email, oppure potete scrivere a Valeria, che è al 333-2494-643. Ci sei? Sì, che manca da di? Allora io vorrei, per far capire alle nostre ascoltatrici che cosa significa una vacanza in masseria, leggere, esatto, un piccolo scritto della nostra amica Giulia, che salutiamo, una ragazza che fa parte del gruppo delle desiderande di Bari, che ha scritto appunto una serie di libere associazioni mentali in stato di dormiveglia, ovvero quella condizione intermedia di brevissima durata che va dalla fine della masseria estiva all'inizio di quella di Capodanno e viceversa. Perché sì, la vacanza in masseria non si fa soltanto d'estate, ma si fa anche d'inverno. Quindi Giulia ha scritto, diciamo, queste riflessioni che appunto vi leggeremo. La prima riguarda i turni. Vorrei svenire, ma non posso. Ho il turno cena. Eserciti di caffettiere mi inseguono. Che croce, croce. Bisogna togliere i crocifissi. L'anno prossimo facciamo anche qualche turno sonno. Amore, abbiamo solo un turno insieme in 3 giorni. Che bello, che bello. Ti dispiace sostituirmi 5 minuti? Non c'è nessuno al bar. L'anno prossimo faccio l'ospite. E poi lo spettacolo. Ma come mi è venuto in mente di farmi coinvolgere? Non ce la farò mai. Se mi vedesse il capo ufficio, ma quante saranno là fuori? Ragazze, metteteci più impegno, e che cazzo. Questa sedia non c'ha i gommini, ci cado di sicuro. Da domani mi vesto sempre così. Chi ha preso il gin tonic? No, io non voglio essere la prima. I fiori, dove sono i fiori? State calme e andrete benissimo. L'anno prossimo faccio l'ospite. E i gruppi? Oddio, stasera c'era la riunione dell'allestimento e dell'animazione? Mi raccomando, solo blu e argento, che tutti gli altri colori fanno schifo. L'agenda con tutti i prezzi? Sta nell'altra borsa. Ma la pizza a che ora arriva? Quante prenotazioni? 2. La riunione è stata spostata all'altro capo della città? Molto umana ad avermi avvisata mezz'ora prima. Comunque, l'anno prossimo faccio l'ospite. Furgone, 40 gradi all'ombra e noi scarichiamo il furgone. Meno 2, vento gelido e noi scarichiamo il furgone, però non piove. Facciamo la catena, il carrellino, la discesa, colpo della strega e la strumentazione dove va? Un altro gazebo, ma quanti sono? Adesso vengo su io, ti do il cambio. Colpo della strega, che io sto da stamattina alle 7 a caricare il furgone e tu invece di fare le riprese vieni ad aiutare. L'anno prossimo faccio l'ospite. Sei rimasta da sola al bar? Negroni? Sì, sì, lo so, posso farcela, l'ho visto fare tante di quelle volte. Barista provetta, mai saputo niente sui cocktail, arriva subito, un cappuccino? Eccolo, che culo oggi, mai fatto nemmeno un cappuccino. Concentrazione, concentrazione, tieni il resto, ci vuoi il ghiaccio nella coca? Ah, perfetto, altri 4 cappuccini e 2 negroni ancora. Beh, l'anno prossimo faccio l'ospite. Alta tensione, perché tu, perché io, perché tu, perché io, perché noi, perché voi, perché ieri, perché oggi, perché quella volta, perché l'avevo detto, perché non l'hai detto, perché è tardi, perché è presto, perché cazzo, perché tu, perché io. Beh, l'anno prossimo faccio l'ospite. Sapore di masseria, resina, basilico, anguria, odore mediterraneo dell'incontro. Sapore di birra, bocca del risveglio, cani che abbaiano e mal di testa. Sapore della conquista, odore di fumo, di erba, di mare, odore di un posto del sud dove sei libera. Sapore dolce amaro di tutto quello che si perde, di tutto quello che si prova, di tutto quello che si ricorda e di tutto quello che si dimentica. Questo per quanto riguarda, diciamo, l'organizzazione, che però non riguarda voi, insomma, riguarda ovviamente le donne che sono lì e lavorano per garantirvi una vacanza bella e divertente. Ma Giulia chiude le sue riflessioni in questo modo e intitola questo pezzo Zabaione per le sopravvissute. Sono le 3 del mattino e siamo rimaste in poche. Stiamo tutte morendo dal sonno e la giornata che ci aspetta domani non sarà meno faticosa di questa appena passata. Però di andare a dormire non se ne parla proprio. A quest'ora siamo un po' più vere e più sbucciate, tiriamo fuori ciò che sta più in fondo. Chi è rimasta lo fa per il puro piacere di esserci e di farsi queste ultime 4 chiacchiere. Senza avere necessariamente qualcosa di particolare da dire, qualcosa di molto importante o di molto divertente. Restare sveglie a parlare di niente, a dire cazzatine, frasi lasciate a metà, racconti smozzicati e silenzi benedetti. Sentirsi libera di non dire assolutamente nulla, se non vuoi dire nulla, di osservare soltanto. Di ridere fino alle lacrime se hai voglia di ridere. Di lasciarti andare alla tristezza se ti senti triste. Sentirsi libere e un po' più vicine. Poi preparare un'altra cannetta e farla girare. E quello che ti porterai dentro di questi momenti non sarà un ricordo preciso, ma una impressione sfumata, una sensazione di puro benessere. Sono le 3 del mattino, però di andare a dormire non se ne parla proprio. Tra un po', ci scommetto, qualcuna si alzerà e andrà in cucina a preparare gli spaghetti. Questa è la masseria, prenotatevi, sì. Andate e divertitevi. No, perché poi noi che organizziamo sappiamo che pure noi, no? Che facciamo? Prepariamo i tavoli, spostiamo, cerchiamo di allestire il meglio possibile per voi. Sappiamo la fatica che c'è. E infatti vi dirò che l'anno prossimo io faccio l'ospite. Per cui capiamo tutte queste cose. Pensate che cosa significa voler organizzare una settimana di vacanze per sole donne. Che donne che poi arrivano volenterose. Però insomma, diamo tutte una mano. Però. Sempre donne sono, quindi si sa che... Noi per una serata di Saffogarden quelle si ammazzano. Tu immagini tutto un torneo di una settimana, a ballare, a sfrenarsi. Beh, infatti, cioè, io faccio l'ospite. Esatto. Oh, allora io vorrei l'ultima cosa è salutare due ragazze che ci hanno scritto, che certo. Sono già De Lucia, tu non l'hai letto ancora, e che dicono che povere squattrinate, loro rimarranno a studiare per gli esami di settembre, però insomma. Studiare accucciate mentre tutti stanno al caldo. Vabbè, ma studiano insieme è già qualcosa. Gioite della vostra questa compagnia. Questa è la vacanza più bella che ci proponete, secondo vabbè, me, no? A Roma sai come si dice? Consolati con l'aglietto. Lo so. Vabbè, comunque un bacio già da Lucia. Lucia, bravi, se vi trovate studiate. A passare dopo domani, oddio, lì pure a pagamento, non so se dirlo, la casa internazionale delle donne, però passateci a trovare che così Vediamo qualche dritta per gli esami. A Roma si sta bene ad agosto. Ne abbiamo passati tanti. Io, se posso, rimango pure io. Non studierò perché per me proprio lo studio. Figurati, quando mai? Hai capito? Dunque, io direi che sì. A questo punto dobbiamo cominciare con i nostri saluti perché dovete sapere che dovete sapere che questa è la nostra ultima trasmissione prima ovviamente di ritornare qui con voi a settembre. Sì. Per cui è stata una trasmissione per noi divertente, ma anche un po' triste perché non ci sentiremo per circa un mese. No? Sì, sì. Non so come sopravviverete, noi sappiamo perfettamente come farlo. Mandateci le cartoline se volete, a via San Francesco di Sales 1B, no? Esatto. Al CLR presso il CFS. Se vi va di dirvi Ma sì, ma già sì. Lucia, perché da Roma, voracci. Ah beh, ci mandano una cartolina del Colosseo. Se faccio mi prende un colpo. Madonna mia, che da Roma che cartoline, no? Poveretti. Ci sono anche il Lungotevere. C'è il Lungotevere, ci sono, non so, il piedone di Costantino, esatto. Il testone di Costantino, oppure sì. I gatti di Roma, insomma, ci potete mandare tante cartoline, oppure sì, ci potete anche mandare una vostra fotografia di voi che siete lì a sudare, a sbuffare sui libri. A provare che avete studiato voi. Ce la mandate in busta chiusa, sì. Sempre al CLR, presso il Centro Femminista Separatista, in via San Francesco di Sales 1B, sì. E noi la metteremo nella nostra galleria dei ricordi che si sta facendo sempre più vasta, sì, questa galleria. Capiamo quando ci stiamo invecchiando. Perché infatti stiamo diventando vecchie. Comunque, vabbè. Questa abbiamo detto è la nostra ultima trasmissione in diretta, ma martedì prossimo questa stessa trasmissione verrà replicata e poi per tutto luglio manderemo delle vecchie trasmissioni, quindi sì. Se volete comunque rimanere con noi e ascoltarci. Io leggo la posta praticamente sempre, per cui se vi va ancora di scriverci, certo, mandateci clrbp.it. Venite sul nostro sito, perché a breve saprete pure la prossima iniziativa. Partiremo subito a fine settembre con una nuova iniziativa. CFS ospita Immaginario, diamo una piccola anticipazione. Sì. E quindi sarà il 23 settembre, se non sbaglio, dovrebbe essere un sabato, e quindi vi aspettiamo anche lì. E poi insomma ci organizzeremo per una serie di iniziative. Beh, io certamente no, o meglio, avrò la mia classica abbronzatura da braccio fuori da finestrino. Io come sai, venendo da Trentino, pure venendo da Bolzano, sarò leggermente ambrata, diciamo. Leggermente ambrata. Esatto. Va bene, ragazze, è stato bello, nonché breve e intenso. Sì. Grazie di essere state con noi, qualcuna c'era, nonostante i libri e lo studio. Grazie già a Lucia e niente. E allora, buon estate, qualunque cosa facciate, cercate di riposarvi, di rilassarvi dopo. Di divertirvi. Sti giorni a Roma che proprio. Terrificanti. Ma hai visto che è successo? Sì. Ma Ron, per carità, l'ha saputo. Non lo voglio manco capire. Non lo dire. E vi lascio con una cantante che è del posto mio. Dai. Auma Uma. Ciao a tutte, grazie. Ciao, alla prossima. Guardiere,